5 anni sono ancora qui. Che mi chiedo cosa fai nella mia testa G. Dopo tutto agitazione tra le mie vene, flusso sanguigno irregolare, nel tempo sei ancora qui. Voglio essere donna, donna come te, non perdere il controllo sugli altri e su di me. Essere una donna diva come te, con sentimenti e corpo proprio come te. Inside my brain you are, I wanna be a star. Inside my brain you are, I wanna be a star. Lei si distingue tra mille persone, un po' luccica, un po' lucciola. Intimidito, uno specchio riflette l'agi, la sua etica è pura estetica. E dopo 2 anni che stava con me, mi chiede per l'amore che cos'è. Voglio essere donna, donna come te, non perdere il controllo sugli altri e su di me. Essere una donna diva come te, con sentimenti e corpo proprio come te. Partir.